America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Da Washington, Mario Platero, ve lo ricordo, sono qui per la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In questo momento sono alla Casa Bianca, questione di pochissimo. Il nostro Presidente dovrebbe arrivare per il suo incontro con il Presidente americano Barack Obama. Direi che è il clou di questa visita. Ieri abbiamo incontrato il Presidente alla National Gallery, abbiamo chiacchierato con lui di quel che succede in Italia e in Europa. Ovviamente il Presidente ha mandato un messaggio per l'unità, ha detto che occorre fare sacrifici comuni, ha ribadito che debbono essere condivisi e soprattutto distribuiti su tutte le fasce della popolazione, dunque anche un appello per l'equità, un sacrificio comune, ha detto, che tutti devono fare. Si augura che ci sia anche un lavoro comune sia delle maggioranze che dell'opposizione per arrivare a una manovra soddisfacente, perché ne va dell'interesse del Paese. Un messaggio politico dunque piuttosto importante. Oggi darà un altro messaggio politico al Presidente degli Stati Uniti, portando da parte italiana l'auspicio che da questa crisi l'Europa possa uscire rafforzata e che il rafforzamento dell'Europa è ovviamente nell'interesse degli Stati Uniti. Domani Napolitano avrà un incontro con Nancy Pelosi, Presidente della Camera, una colazione offerta dalla Corte Suprema e poi in serata i Sons of Italy, la più antica organizzazione di italo-americani, un pranzo d'addio prima del rientro. Affrontiamo invece un paio di altre notizie di cronaca. Da una parte il problema della Corea del Nord, di questo gravissimo atto di attacco proprio della Corea del Nord nei confronti della Corea del Sud, e alle Nazioni Unite se ne sta discutendo, c'è una proposta molto concreta, il presidente Barack Obama ha dato un messaggio chiaro alle forze armate americane dicendo che certi soprusi non si possono accettare, ma Timothy Geithner, segretario al Tesoro, e Hillary Clinton, segretario di Stato, sono in Cina. Hanno comunicato a Pechino il loro risentimento, soprattutto Hillary Clinton, per quel che è successo con la Corea del Nord, ricordiamolo, un attacco che ha affondato una nave della Corea del Sud, e hanno ribadito gli americani che ci saranno delle conseguenze. Difficoltà sul piano economico, difficoltà che sappiamo essere ormai quasi permanenti, c'è quasi un dialogo fra sordi, fra americani e cinesi su questioni che riguardano i rapporti sui cambi e anche sulle sanzioni in Iran. Gli Stati Uniti a questo punto devono davvero portare a casa qualche cosa di molto concreto. Lasciate che vi racconti un paio di cose invece che hanno coinvolto l'opinione pubblica americana. Due puntate televisive, due ultime puntate di due serie importanti, Lost and 24. You died? Yeah. Yes, I did. Then how are you here right now? How are you here? I died too. Vi avevo detto la settimana scorsa che dopo 20 anni la NBC aveva deciso di cancellare Law and Order, uno dei programmi televisivi più seguiti in America. L'ultima puntata è stata in effetti ieri sera, ma è un momento nostalgico un po' per tutti i programmi televisivi, perché domenica notte è andata in onda l'ultima puntata assoluta di Lost, che ha chiuso alla sesta stagione, e poi ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di 24, di 24. Cominciamo da Lost, vi ho fatto sentire un piccolo estratto da questo programma che ha avuto uno straordinario successo e che poi è stato visto proprio nell'ultima puntata in contemporanea globale. Beh, è una storia molto fantasiosa, un aereo precipita su un'isola deserta, i sopravvissuti esplorano questa isola per accorgersi che è piena di segreti, di misteri che risalgono addirittura a millenni fa. Questa popolazione di sopravvissuti piano piano scopre alcuni personaggi che vivono dell'isola, si intrecciano delle storie, ci sono dei flashback, insomma un messaggio alla Romolo e Remo, perché una delle trame principali riguarda due fratelli gemelli, uno buono, l'altro cattivo, il cattivo che cerca di fare di tutto per uccidere il buono. Comunque alla fine colpo di scena, il protagonista dei sopravvissuti, viene ucciso e dunque si sacrifica per consentire a quest'isola di continuare la sua vita, dunque un messaggio di speranza. 24 è un'altra storia, 24, un programma nato negli anni del terrorismo, racconta sempre la storia di un tentativo di sventare degli attacchi terroristici, ma sempre con un colpo di scena. Nel corso delle puntate, in ogni stagione, c'è un personaggio che sembra buono e che poi invece finisce per essere un traditore. Dunque ci sono le cosiddette conspiracy theory, in cui si pensa che dietro ci sia sempre la mano di qualche personaggio misterioso. Si arriva addirittura all'estremo di un presidente americano che viene rapito e viene poi interrogato da queste persone che continuano a chiedergli chi c'è dietro di te. Devo dire, le conspiracy theories hanno una grande presa. Purtroppo abbiamo visto proprio recentemente un trasferimento di queste teorie delle conspiracy nella politica. Rand Paul, che la settimana scorsa ha vinto le primarie repubblicane per il seggio per il Senato del Kentucky, che sarà in palio in novembre, è sì un esponente del Tea Party, ma è anche un grande teorico delle conspiracy theories, è contro lo Stato, ritiene che i parlamentari facciano parte di un complotto, vorrebbe abolire il fisco, vorrebbe abolire una gran quantità di istituzioni americane e soprattutto ha rivelato proprio negli ultimi giorni, e lì è stata una gaffe, che secondo lui alcuni progressi compiuti dal movimento dei diritti civili sono stati controproducenti. Il passaggio da qualche programma televisivo alla realtà non è poi così difficile. Ma con la chiusura di tutti questi programmi, che cosa succederà la prossima stagione? Beh, ognuno ha in serbo programmi nuovi. Per esempio la NBC ha The Cape, Blue Blood per la Disney, Sangue Blu, e The Good Guys della Fox, che di nuovo punta su thriller dove ci sono sempre i buoni che alla fine vincono. L'idea è che c'è un cambiamento di umore nell'opinione pubblica americana, la gente è in uscita dalla recessione ma sente ancora la recessione, simultaneamente le reti televisive hanno deciso di troncare con i vecchi programmi, di cominciare con dei nuovi, un segno importante, secondo me anche questo, dei tempi che cambiano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno, una notizia di ieri. La Library of Congress ha annunciato che Paul McCartney è il terzo vincitore del Gershwin Prize for Popular Song. Il presidente Obama simultaneamente ha detto che ospiterà Paul McCartney per un concerto nella East Room il 2 giugno. Appuntamento dunque per quel giorno e appuntamento con noi per ascoltare Hey Jude, scritta da McCartney nel 68 per consolare Julian Lennon, figlio di John, quando i genitori divorziarono. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. È una versione, questa che vi faccio ascoltare, molto particolare, del 2008 con altri cantanti che cantano con Paul McCartney, Sting, Elton John e grandi cori. Eccola, Hey Jude. Bene, da Washington è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.